Uyelele mama, uyelele mama siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Uyelele mama, uyelele mama. Zimbabwe. Uyelele mama, uyelele mama. Uyelele mama, uyelele mama. Zambia. Uyelele mama, uyelele mama. Uyelele mama, uyelele mama. Malawi. Uyelele mama, uyelele mama. Uyelele mama, uyelele mama. Mozambique. Uyelele mama, uyelele mama. Uyelele mama, uyelele mama. Angola. Uyelele mama, uyelele mama. Uyelele mama, uyelele mama. Botswana. Uyelele mama, uyelele mama. Uyelele mama, uyelele mama. Lesotho. Uyelele mama, uyelele mama. Uyelele mama, uyelele mama. Swaziland. Uyelele mama, uyelele mama. Uyelele mama, uyelele mama. South Africa. Uyelele mama, uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele uyelele uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele uyelele uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Africa. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Africa. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Africa. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Africa. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Morocco. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Somalia. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Ghana. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Nigeria. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Gambia. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Sierra Leone. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Kipite. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Africa. Uyelele mama, uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Africa. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Africa. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Zimbabwe. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Zimbabwe. Uyelele mama, uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Siyajabula thina. Uyelele mama, uyelele mama. Un salutone a tutti e tutti, nuova puntata di Uru, sono musica e notizie dal continente africano, la state ascoltando in streaming dal sito wombat.noblogs.org, appunto Radio Wombat, la potete ascoltare, la state ascoltando anche in AM1359. Ricordiamo le repliche di Uru, oltre alla diretta delle 21.30 e venerdì, e cioè la domenica alle 23 e il lunedì alle 8.30. Le repliche, la diretta e le repliche di Uru sono rimaste agli stessi orari, mentre invece ci sono stati alcuni cambiamenti di orario nel palinsesto rispetto ad altre trasmissioni, rispetto ad altre rubriche di Radio Wombat, in particolare le informative. E sul palinsesto, sulla pagina palinsesto della radio, sempre a wombat.blogs.org, troverete appunto tutte le novità e comunque gli orari precisi delle trasmissioni. Ricordiamo che Uru ha anche un proprio profilo Twitter, Uru-RV, in cui appunto, oltre alle notizie sulle trasmissioni, mandiamo anche notizie su quello che accade, quello che succede in Africa. Sì, stasera in questa puntata parleremo della musica angolana e con in special modo della semba, della semba che va dalla fine degli anni 50 alla metà degli anni 70. Questo periodo perché la semba è stata in questo periodo strettamente connessa, intrecciata con la lotta d'indipendenza dell'Angola, tant'è che la maggior parte dei pezzi che sentiamo stasera sono di autori, cantanti e quindi musica e testi che parlano di indipendenza. La semba è stata proprio la punta di lancia della lotta di indipendenza, nel senso che fin dall'inizio le sue parole hanno stimolato l'immaginazione politica degli abitanti nella richiesta dell'indipendenza, e specialmente nei Museques, i sobborghi poveri di Luanda, dove il regime coloniale era ancora più sentito, più discriminatorio ed escludente delle dell'altre parti della nazione, questa musica è riuscita a rifiutare le dicotomie urbano, rurale e africano occidentale per proclamare con i testi di queste canzoni un cosmopolismo africano che si rifaceva anche agli altri popoli che erano anche loro in lotta per l'indipendenza, come per esempio Capoverde, con cui condividevano il colonialismo portoghese, la lingua e la voglia di libertà. Elias Dia Kimweso è considerato orei della musica angolana e tra l'altro a più di 80 anni, circa 2 anni fa, ha prodotto il suo ultimo, per ora, il suo ultimo lavoro musicale, O Semba Passa a Chi, ma la traiettoria musicale di Elias Dia Kimweso, o come nome all'anagrafe Elias José Francisco Kimweso, è iniziata fin dagli anni 60, quando appunto è stato consacrato orei della musica angolana. L'ultimo lavoro si intitola O Semba Passa Chi, proprio per sottolineare questa continuità da un punto di vista musicale, anche da un punto di vista dei testi delle canzoni. Noi però vi facciamo ascoltare appunto un pezzo degli anni 70 che si intitola Chamavo. We'll be right back. e vi abbiamo già parlato in alcune trasmissioni precedenti dello sviluppo dell'energia solare, in particolar modo nelle campagne africane, anche perché l'Africa gode della migliore esposizione solare del mondo, circa 300 giorni all'anno di pieno sole, e la sua popolazione, sono già 1 miliardo e 300 milioni circa, consuma meno energia di appena 150 milioni di francesi e italiani, e solo un africano su tre ha un accesso stabile alla corrente, all'energia elettrica. Ecco perché si stanno sviluppando questi modi di trarre energia appunto dall'energia solare. E per esempio 600 famiglie in Kenya, Uganda e Tanzania sono illuminate con un modello semplice quanto innovativo, e cioè un pannello solare da 8 watt che è pagato un micro pagamenti rateali, circa meno di mezzo euro al giorno, un pagamento che è inviato tramite SMS, e l'obiettivo è appunto di riuscire a installare circa 4 milioni di questi pannelli solari da 8 watt entro il 2020. In Tanzania invece sono due studenti di 25 anni che tra l'altro hanno studiato in Italia e poi hanno portato, diciamo così, i loro saperi nella propria terra di origine, sono andato ad aiutarli a casa loro, e quindi che hanno aperto una piccola società e hanno costruito il primo lavoro, è stato un piccolo impianto per una scuola, e oggi sono 45 gli impianti realizzati in tutto il paese e sono utilizzati in particolar modo per gli edifici pubblici, appunto per le scuole in particolare. Il prossimo pezzo è di Oscar Neves, un altro dei grandi della samba angolana. Lui ha collaborato con i principali autori tipo Urbano De Castro e con lo stesso Elias Dia Kimueso che abbiamo ascoltato precedentemente. Di lui ci ascoltiamo Mabelé. Mabelé, mabelé, mabelé, mona mabelé, mabelé, mabelé, mona mabelé, mona mabelá, mona mabelé, mona mabelé, anda, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ha, ha. Mona canto mwe belita, mona canto mwe belita, belita washi lile shiko belita, belita washi soka longa belita, eye belita, ye mona ma belé, eye belita, ye mona ma belé, ye mona ma belé, ye mona ma belé, ye mona ma belé, ye mona ma belé, ye mona ma belé. Ma belle, Il prossimo pezzo è di un gruppo angolano per cui in realtà abbiamo cominciato prima il periodo della musica che vi stiamo proponendo. Perché? Perché loro sono un po' precedenti ai gruppi che vi abbiamo fatto e vi faremo ascoltare, ma sono tra i gruppi, stiamo parlando degli Ngola Ritmos, considerati fondatori della Semba. Nelle loro canzoni c'è l'affermazione collettiva e partecipata della identità culturale angolana. Una band di musica tradizionale, cioè della Semba angolana, creata intorno al 1947 dal Liceo Viera Dias, Domingos Van Durem, Mario da Silva Rucho, Manuel Dos Passos e Nino Ndongo. Le canzoni come Mbiri Mbiri, Colonial, Palamen, Umuxina sono state eseguite da molti altri cantanti, infatti le loro registrazioni sono molto rare. La maggior parte dei membri di questa band erano militanti nazionalisti. Liseo, uno dei membri della band, è stato un fondatore del movimento di liberazione MPLA, e sia lui che Amadeu furono arrestati nel 1959 e deportati nella prigione di Tarrafalla a Capoverde per tornare solo 10 anni dopo in Angola. La band ha cantato fino agli anni 60 quando hanno registrato la canzone Nzage che adesso vi faremo ascoltare. Quindi Ngola Ritmos, Nzage. Zaji, zaji, zaji, zaji, zaji, zaji, zaji, zaji, zaji, zaji, zaji, zaji, zaji, zaji, thank you. vi ricordo che state ascoltando Uru, la trasmissione sui suoni e notizie dall'Africa. In diretta adesso la state ascoltando il venerdì alle 21:30. Le repliche sono la domenica alle 23 e il lunedì mattina alle 8:30. Oltre che in streaming sul sito wombat.blogs.org la potete ascoltare all'1359 in AM. E vi ricordo che dal sito wombat.blogs.org potete ascoltare anche tutte le puntate precedenti nel menu podcast, ascoltarle oppure scaricarle, ascoltarle successivamente, non solo di Uru ma di tutte le trasmissioni. Se volete parlare, comunicare con noi, potete scrivere a postawombat@insiberia.net. Urbano Castro è un altro degli esecutori, degli autori di Semba che nello stesso momento, sia nei propri testi, nei testi delle canzoni, sia nella vita, diciamo, ha aderito, come la maggior parte dei giovani di quel periodo lì, alla rivoluzione anticoloniale. Nel 1970 appunto Urbano Castro aveva 29 anni e fu arrestato dalla PIDE, la terribile, temibile polizia segreta portoghese, e fu rinchiuso in prigione per 3 anni. E in seguito al tentativo di fuggire a Caminda per unirsi appunto ai guerriglieri dell'MPLA. Successivamente appunto è rimasto in prigione 3 anni, proprio perché nel 73 riuscì con un secondo tentativo di evasione appunto a fuggire, a unirsi ai Mayombe, allo squadrone Mayombe, in cui tra l'altro c'era anche oltre a Savata, Chiamucci, Francisco Vago, Vigai e Passaron, c'era pure David Zé, che è un altro famoso autore musicale di cui vi faremo ascoltare un pezzo nel corso della trasmissione, e che erano appunto tutti guerriglieri e nello stesso momento artisti. La canzone Angola Liberté, che è stata pubblicata in quel periodo appunto di Urbano De Castro, ebbe un enorme effetto di mobilitazione sulle basi della FAPLA, che è appunto la Forza Armata Popolare di Liberazione dell'Angola, appunto il braccio militare dell'MPLA. Si unì successivamente ad altri artisti per formare il celebre complesso musicale FAPLA Povo. E tra l'altro c'è anche questa particolarità che prima di iniziare a comporre, a cantare pezzi musicali, aveva fatto parte di un circo, era un acrobata, era un equilibrista. E comunque Urbano Castro è tuttora ricordato, molti canzoni lo celebrano, e molti, per esempio Urbano Fillo, Santos Junior, e comunque ha ottenuto numerosi riconoscimenti postumi, purtroppo, perché deceduto durante la guerra d'indipendenza. Di lui ci ascoltiamo Kia Lomingo. Kialumingo, kialumingo, kialumingo mfulawe. Kialumingo, kialumingo, kialumingo mfulawe. Kialumingo, kialumingo, kialumingo mfulawe. Ilengela kwebye, ilengela kwebye, ilengela kwebye. Izuya budike, izuya budike, izuya budike. Ilengela kwebye, ilengela kwebye, ilengela kwebye. Push. Kialumingo, kialumingo, kialumingo mfulawe. butike konani bizu ya butike konani ngilangela ngwege konani ngilangela ngwege konani ngilangela ngwege konani ngilangela ngwege konani bizu ya butike konani bizu ya butike konani bizu ya butike konani bizu ya butike Ceuta e Melilla sono due enclavi spagnole poste lungo la costa settentrionale del Marocco, vicino allo stretto di Gibilterra, due punti del continente africano che sono i più vicini alla comunità europea e emblematici di come l'Unione Europea tenti negli anni di gestire i flussi migratori in termini securitari. Ceuta e Melilla sono infatti divisi dal Marocco con una doppia rete metallica alta 6 metri, lunga quasi 10 km intorno a Ceuta e più di 8 intorno a Melilla. Barriere erette nel 97-98 si sono state ulteriormente rafforzate negli ultimi anni. Veri e propri muri di filo spinato e lame di metallo con torri di avvistamento, sistemi di videosorveglianza, illuminazione ad alta intensità, torri di controllo e muniti di ammiramenti interni per la Guardia Civile, che opera un costante pattugliamento insieme alle forze di polizia marocchine. Quindi una delle frontiere più militarizzate del vecchio continente e tra l'altro le due enclavi hanno uno status speciale dal punto di vista giuridico in quanto hanno formalmente lo status di città autonome ma con controlli alle frontiere serratissimi, quindi assolutamente fuorviante questo il titolo di città autonoma. Stando ai numeri riportati al Ministero degli Interni di Madrid, quindi la fonte istituzionale, nei primi 6 mesi del 2017 3.000 migranti sarebbero entrati in Spagna attraverso l'enclave di Ceuta e Melilla. E più di 700 organizzazioni umanitarie hanno sottoscritto una petizione con la quale chiedere l'istituzione di una missione internazionale di inchiesta che verifichi le responsabilità sui fatti che accadono su Ceuta e Melilla, in particolare su i continui tentativi di assassini rispetto ai migranti che tentano di passare la grande muraglia dell'Europa. In realtà la risposta da parte dell'autorità è stato un rafforzamento delle barriere già esistenti. E una delle tragedie più immane sta il 6 febbraio 2014, dove 300 migranti di origine subsahariana hanno tentato di nuotare a partire dalle 7 del mattino fino alla spiaggia di El Tarajal, approfittando della bassa marea, e è intervenuta la Guardia Civile e ci sono stati 15 persone uccise al confine appunto in questo tentativo di di forzare la barriera provocate dall'uso di armi antisommossa. E la violenza della polizia però non si è fermata quel giorno lì, già il 20 ottobre 2014, questo è documentato anche da un video, un gruppo di agenti uccide un migrante camerunense. E mentre la stampa e i media sono distratti, questo confine tra il Marocco e il Ceuta e Melilla scompare dal mainstream, alcuni documentaristi si sono sforzati di dare uno sguardo più profondo alle tragedie che si consumano intorno a questi muri dimenticati. In particolare Les Sauteurs è un film danese che affida le riprese sulla vita dei migranti in un accampamento vicino a Melilla a Abu Bakar, un giovane che proviene dal Mali e che vuole andare in Europa. Momenti drammatici si vedono in questo documentario, come per esempio la morte di un amico di questo ragazzo alla telecamera mentre sfida la frontiera. Il documentario, appunto, ripetendo, si intitola Les Sauteurs, Those Who Jump, cioè quelli che saltano. Tra l'1 e il 2 gennaio 2017 ancora un tentativo disperato di più di 1000 migranti, per lo più provenienti anche in questo caso dalla Africa subsahariana, che ingaggiano un durissimo scontro con la polizia marocchina. Ceuta e Melilla continuano ad essere tabù, non ci sono sulla stampa anche spagnola articoli o inchieste su quello che accade, su quello che succede in questa frontiera dimenticata. Il pezzo che passiamo adesso è di David Gabriel José Ferreira, conosciuto come David Zé, nato il 23 agosto del 44 a Kifangongo, nella provincia di Luanda. Ha iniziato la carriera artistica nel 66 con Kadika Zé, che è stato il suo primo album, e ha registrato un totale di 14 singoli e un LP nel 75 dal titolo Mutudi wa Ufolo, La Libertà. Contemporaneo di Urbano De Castro, di cui abbiamo parlato prima, Arthur Nunes e Dino Kupaku, altri due tra i principali musicisti angolani, David Zé è uno dei fondatori del gruppo Alliance FPLA Povo e ha partecipato con questo gruppo alle celebrazioni dell'indipendenza di Mozambico, di Sao Tomé e Principe e Guinea-Bissau, dove ha suonato la canzone che ha ucciso Amilcar Cabral. È stato uno dei più grandi musicisti della rivoluzione angolana e con i testi con contenuti altamente politici ha difeso nelle sue canzoni le idee nazionaliste dell'MPLA. È morto a soli 32 anni nel 1977. Di lui ci ascoltiamo Mbuangolé o Guerrigliero. Eu guerrilheiro que passa o tempo lá na mata. Eu guerrilheiro que passa o tempo lá na mata do Mayombe, lá nas chanais do leste, aonde chove todos os dias, onde os mosquitos não se contam, os miruins já não se contam, a gente às vezes passa fome. Pra libertar o nosso povo, este é o preço da revolução. Ei, Mangolá, ei, Mangolê, ei, Mangolá. Ei, para separarnos, espalhando boatos e mentiras. Mas ele nunca disse nunca que Alaska não é América. Ele só tenta dividir-nos. Ei, Mangolá, ei, Mangolê, ei, Mangolá. Angola hoje deu um passo bem em frente. Angola fosse feita na prática, a reação não passaria. Ei, Mangolá, ei, Mangolê, ei, Mangolá. Pra isto foi o guerrilheiro que passou as festas lá na mata. Foi o guerrilheiro, passou o Natal na mata, o Ano Novo lá na mata, o Carnaval foi lá na mata, pra libertar o seu povo. Este é o preço da revolução. Ei, Mangolá, ei, Mangolê, ei, Mangolá. Interessa alguém. Se está unida, também já interessa alguém. Um só povo, uma só nação, de cabinda ao punenire, abaixo a desunião. Ei, Mangolá, ei, Mangolê, ci sentiamo subito un altro pezzo musicale, una composizione un po' particolare, perché sostanzialmente unisce la ballata ai ritmi, la ballata tradizionale angolana ai ritmi della semba. C'è una prima parte a ballata, una seconda parte un po' più lunga, un ritmo della semba. L'autore è Tony Von e il pezzo si intitola Noha. Anyaka, yejibele mametu. Nyaka, nyaka, nyaka, tundangu talisi. Anyaka, yejibele katetu. Nyoka, nyoka, nyoka, tundangu talisi. Nyoka si, tundangu talisi. Nyoka si, tundangu talisi. Ya jibile mame, tundangu talisi. Ya jibile tate, tundangu talisi. Nyoka si, tundangu talisi. Nyoka si, tundangu talisi. Ya jibile mame, tundangu talisi. Ya jibile tate, tundangu talisi. Oh, nyoka si, tundangu talisi. Oh, nyoka si, tundangu talisi. Thank you. nyoka ya jibele mamedu ni tatetu tunda bukanga ngandala kutala nyoka yenei nyoka ze bangutalese nyoka ze bangutalese ya jibele mamedu bangutalese ya jibele tatetu bangutalese nyoka ze bangutalese nyoka ze bangutalese ya jibele mamedu bangutalese ya jibele tatetu bangutalese oh nyoka ze bangutalese oh nyoka ze bangutalese Nyoka ze bangutalese nyoka ze bangutalese ya jibile mamedu bangutalese ya jibile tatetu bangutalese nyoka ze bangutalese nyoka ze bangutalese ya jibile mamedu bangutalese ya jibile tatetu bangutalese. È una notizia che la dice lunga del declino dell'Unione Africana, un consenso, l'Unione che vede la presenza, la partecipazione di tutti gli stati africani, che fino agli anni '80 era, seppur in una forma molto istituzionalizzata, una forma di solidarietà alle lotte anticolonialiste e antineocolonialiste. La notizia è che il 10 febbraio scorso il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha assunto la presidenza dell'Unione Africana, prendendo il posto del leader ruandese Paul Kagame. Una decisione che chiaramente preoccupa non poco dal punto di vista dei diritti umani. Intanto durante il suo mandato si sono espresse le organizzazioni dei diritti umani. Durante il suo mandato al potere il presidente al-Sisi ha dimostrato un disprezzo scioccante per i diritti umani, e sotto la sua guida il paese ha subito un catastrofico declino dei diritti e delle libertà. Il prossimo artista di cui facciamo ascoltare un pezzo è Tefalando. Alberto Tefalando è il nome completo, nato nel 48, è nato in Mbanza Kongo, la capitale della provincia dello Zaire nel nord dell'Angola. La sua musica è focalizzata specialmente sull'identità angolana, sulla guerra civile e sulla saudade, la nostalgia. Parla e suona sia in portoghese che in kigongo, la lingua appunto del nord dell'Angola. Durante la sua vita ha diretto, creato molti gruppi angolani musicali. Di lui ci ascoltiamo Fugei na Escola para Jogar a Bola, e cioè sono scappato da scuola per giocare a pallone. È un po' diversa dalle canzoni che abbiamo ascoltato finora, perché è un po' più a ballata e meno a samba, che infatti è anche una danza, non solo la musica. Questa qui è un po' più lenta, quindi Tefalando. Thank you. batia, mas eu não sentia, porque não doía, porque não gostava de quinino, porque não gostava de quinino, porque não gostava de quinino. Ai, que saudade da sacola, da escola, que fazia baliza pra eu jogar a bola. Pois eu fugava na escola só pra jogar a bola e pra tocar viola. Fuguei na escola pra jogar a bola. Fuguei na escola pra jogar a bola. Fuguei na escola pra jogar a bola. Sempre all'ascolto di Uhuru, sono le musiche e notizie del continente africano su Radio Wombat, in streaming è wombat.org/streaming, potete ascoltare anche in AM 1359, appunto delle onde medie. Il prossimo pezzo è sempre un pezzo di, che si rifà comunque una trama musicale Semba. Il gruppo si chiama Dimba di Angola, e tra l'altro è da sottolineare questo aspetto, questa parola, questo suffisso che appare spesso specialmente nei gruppi musicali angolani, Dimba di Angola, Angola Rhythms, perché proprio sta a significare l'appartenenza a questa in questo paese dell'Africa, appunto Dimba di Angola. Il pezzo si intitola Fuma. Oh, come abbiamo detto precedentemente, la semba, oltre a essere una musica, è una danza, e le due cose sono strettamente connesse, non si sa se è nata prima la musica o la danza o viceversa. Certamente alla semba hanno contribuito principalmente i musseche di Luanda, le periferie povere. Per citare il nome di qualche musseche, i più famosi per la semba erano i Marsal, Sambinzanga, Rangel, Prenda, i Bairro Operario e i Bairro Indigena. Sono alcuni di questi quelli in cui la semba si è collegata di più alla lotta di indipendenza. E per l'appunto, proprio di uno dei più grandi che ha unito la musica alla lotta di indipendenza è l'ultimo pezzo che vi facciamo ascoltare, e cioè Urbano De Castro, di cui abbiamo parlato precedentemente. Questo pezzo è Fatimita. Fatimita, Fatimita, Fatimita, Fatimita, Fatimita, Fatimita wateshika. Ningi pasa Fatimita, Fatimita wateshika. Finisce qui questa puntata di Uru, vi aspettiamo la settimana prossima. Ciao a tutte e tutti. Ciao ciao. Sia ciao latina. Sia ciao latina. Sia ciao latina. Sia ciao latina. Oh Ethiopia. Oh Uganda. Oh Kenya. Oh Tanzania. Oh Ghana. Oh Nigeria. Sia ciao latina. Sia ciao latina. Sia ciao latina, sia ciao latina, mamma, mamma.